in primo piano. È l'ordigno esploso o semi-esploso alla Bocconi di Milano che molti giornali mettono in prima pagina. Attentato fallito alla Bocconi per il Corriere della Sera, così come pacco bomba paura alla Bocconi per il Messaggero. Il Giornale, ora arrivano le bombe, una bomba da matti per Libero, bomba a orologeria per l'Unità. Mentre chi sceglie la linea politica è Repubblica, Fini, superato il limite di guardia, e anche la Stampa. Fini, io sto con Napolitano. L'apertura del Sole 24 Ore. Parte il fondo per le piccole e medie imprese, pronta l'introduzione graduale di Basilea 2 a partire dal 2012. È una notizia che poi vedremo, riguarda davvero il mondo produttivo italiano, anche se proprio per partire dalla vicenda avvenuta alla Bocconi di Milano voglio restare sul Sole 24 Ore, perché c'è un commento di Fabrizio Forché proprio in prima pagina. Terrorismo e partiti non sono anni di piombo, ma la politica torni grande. Cominciamo da un punto. Gli anni che usiamo chiamare di piombo non c'entrano nulla. Chi oggi ne parla con la rituale locuzione del rischio di tornare a getta volutamente fumo negli occhi o è inguaribilmente piantato coi piedi e la testa negli anni tragici della propria gioventù. Sono lontani i 70, ma guai a sottovalutare. Torna a farsi viva la FAI, questa sigla che ha rivendicato la bomba, lo fa a 3 soli giorni dall'aggressione gravissima di Massimo Tartaglia al presidente del Consiglio, e poco prima il fanatismo islamico aveva colpito duramente alla caserma Santa Barbara di Milano. Brutta aria. Domani si riunirà il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo del Viminale, ma ancora, ribadisce Forché, non sono anni di piombo. Mancano i furori ideologici, i modelli più o meno esotici da abbracciare, ma mancano, e questa è parte essenziale del problema che abbiamo davanti, anche i grandi partiti, in grado di comporre le spinte contrapposte della società e di incanalare in un insieme gli animi più esaltati. Insomma, certo che questo ordigno ha un po' gettato ombre, insomma, su quello che è il clima già difficile che stiamo vivendo. Sulla Stampa, i professori, gli anni 70 non possono tornare, ribadiscono come il rettore Guido Tabellini del Bocconi. Sarebbe un errore sopravvalutare quelle tracce di esplosivo. Quando però si tratta di dare il perché a un gesto, non trova le parole, un gesto inspiegabile. Così come il prorettore Pier Gaetano Marchetti, che è pure presidente di RCS, ero professore anche nel 73, quella sera in cui morì Roberto Franceschi, colpito dalla polizia che presidava l'Ateneo. C'era un clima per cui a volte non si poteva nemmeno entrare, insomma un clima incomparabile con quello attuale. Perché la Bocconi? Ne ragioneremo domani, che poi è oggi, in una riunione del comitato rettorale, ma forse è un gesto dimostrativo magari per l'internazionalità della Bocconi o come simbolo del capitalismo e dell'aziendalismo, tutte cose molto vecchie però. Sta di fatto, insomma, che questo ordigno che è stato scoperto in una bomba artigianale nel tunnel sotterraneo aperto al pubblico fino alle 8 di sera e poi chiuso, viene analizzato già ovviamente dagli esperti dell'antiterrorismo. La sigla, in particolare questa FAI, che per la prima volta peraltro colpì Romano Prodi, allora presidente del Consiglio, lo ricorda oggi Marco Imarisio sul Corriere della Sera, quando arrivò un pacco a casa di Romano Prodi e lo aprì lo stesso Prodi e cacciò un urlo, una fiammata gli bruciò il pullover, poi danneggiò il tappeto sul quale era stato gettato l'ordigno. Era questa federazione anarchica, informale, uno sberleffo fin dalla sigla, scrive Marco Imarisio, uguale a quella ufficiale che raccoglie i pacifici sostenitori italiani dell'idea che non vuole morire. Poi c'era anche insomma l'analisi di questa sigla affine, cooperativa artigiana fuoco ed affini, alla quale se ne sono aggiunte parecchie altre, sempre precedute dalla dicitura FAI. Voglio leggere un breve corsivo che trovate in prima pagina di Avvenire, siglato MT, dunque immagino Marco Tarquinio, il direttore. Una raffica di parole che vengono da un altro tempo, da un'altra Italia, apparati del capitale, attacco, dominio, paura, rivolta, distruzione, una definizione dell'università che fa sobbalzare, dove si affilano le armi che taglieranno la gola degli sfruttati. Un luogo, Milano, già teatro del gesto di violenza fisica contro Berlusconi, e un altro, Gradisca, sede di un centro pre-espulsione di immigrati regolari, collegato al primo in modo arbitrario eppure infine plausibile secondo la logica simbolico-terroristica prescelta. Una firma anarchica, un'esplosione a metà che ha acceso un allarme tutto intero. Ma cosa ha innescato le bombe? Parole. Parole di fuoco, come quelle che hanno preceduto il ferimento del premier e ancora l'accompagnano. E però nel palazzo non si cambia registro. Un'aggressione della dinamite? Che cosa si aspetta di più? Insomma, il direttore d'Avvenire dice, ma anche tutte queste parole, questo clima, questa tensione, queste accuse incrociate, avete iniziato voi, no? Avete iniziato voi, i mandanti morali dell'aggressione, le liste di proscrizione fatte al Parlamento, come dice qualcuno. Certo, il clima è quello che è. A questo proposito, passando alla questione politica, beh, la notizia politica la trovate sul giornale, come spesso succede peraltro negli ultimi tempi, perché la notizia politica è quella che Vittorio Feltri mette in prima pagina e udite udite è questa. Oh, c'è la foto di Gianfranco Fini, ma questa non è una novità, insomma tutti i giorni il giornale si concentra su Gianfranco Fini, il presidente della Camera. Così è fallito il ribaltone di Fini. Mentre Silvio Berlusconi giaceva all'ospedale col volto sfigurato dall'eroe Tartaglia da Cesano Boscone, scrive Feltri, qualcuno a Roma brigava, e come se brigava. Un gruppo di parlamentari ex DN, ora affiliati al Popolo della Libertà, si è riunito ieri attorno a un tavolo per un pranzo cosiddetto degli auguri. Un problema che però è stato affrontato così da Fini, secondo Feltri. Mettiamo il caso si voglia trasformare in minoranza l'attuale maggioranza. Quanti deputati di AN dovrebbero abbandonare l'attuale coalizione per sotterrare il governo? Discussione matematica. Ne basterebbero 23? Sarebbe pareggio. Con 24 invece, ribaltone sicuro. E Fini ha cominciato a sondare e ad annotare e si è accorto che i suoi fedelissimi sono meno di 20 per ora. Dunque, scrive Feltri, il piano è fallito, ma dimostra che le ripetute denunce del giornale in proposito non erano infondate. Insomma, lo dà come una verità, un tentativo di ribaltone. Così è fallito il ribaltone di Fini. E poi dice, la vicenda non finirà qui, vi terremo informati. Ovviamente dice Fini, dice Feltri, li scambio sempre Feltri con Fini, chissà come mai. Dice Feltri, va da sé, Fini negherà tutto, esattamente come in passato ha negato ogni nostra indiscrezione sulla intenzione di cacciare il premier e sostituirsi adesso alla guida del Consiglio dei Ministri. Fini gioca la conta dei fedelissimi per il giornale, tra l'altro anche per il Riformista. Insomma, Fini tiene calde le truppe. A pagina 3 si racconta di questo pranzo in cui Fini avrebbe incontrato un po' tutti, dalla Russa, Matteoli, Alemanno, Bocchino, Urso, Ronchi, insomma gli ex DN, e avrebbe chiesto a molti, tra poco vedo Berlusconi, posso contare su di voi, state con me? Alcuni, scrive Tommaso Labate sul Riformista, hanno evitato di rispondere. Vedremo, oggi questa è sicuramente la notizia per la quale il Presidente della Camera prenderà una posizione, smentirà certamente. Contro i falchi del PDL, fronte della legalità UDC-PD, insiste Pier Ferdinando Casini. In un'intervista a Repubblica, Goffredo De Marchis oggi dice, beh, intanto bisogna cambiare toni rispetto a quello che ha detto Cicchitto, di cui sono amico, ma gli dico chiaro e tondo che ha sbagliato. Cicchitto è quello che ha fatto un po' l'elenco di quelli che sono, secondo lui, i fomentatori dell'odio, Santoro, Travaglio, PM, alcuni, Italia dei Valori, eccetera. E poi ha detto, ribadisco, se Berlusconi coltivasse o avesse coltivato, visto che ha smentito, l'insano proposito del voto anticipato, avrebbe una risposta, come dire, repubblicana e nazionale. Con voi ci sarebbe anche Fini, chiede De Marchis. Questa risposta, secondo me, troverebbe dalla stessa parte anche molti esponenti del PDL, non solo Fini. Insomma, ribadisce Casini questo. Intanto Berlusconi è ancora in ospedale, doveva essere dimesso ieri, dovrebbe essere dimesso oggi, a questo punto usiamo il condizionale, ma viene dato ancora per certo dai giornali. L'ira del premier, non sono io che istigo, leggo dal Corriere della Sera. Che ha fatto Berlusconi? Ha visto la TV, per la precisione ha visto Ballarò e non gli è piaciuto per niente. Basta, fatemi uscire, devo lavorare, così viene definito Berlusconi, che poi ha visto appunto l'altra sera Ballarò. un disastro. Berlusconi si sarebbe innervosito soprattutto per gli interventi del direttore dell'unità Concita De Gregorio. Ma come? Mi fanno passare per quello che crea la tensione e istiga la violenza. Poi è passato a porta, c'era un sondaggio in cui due italiani su 10, dunque il 20%, starebbero con Tartaglia. Apriti cielo. Si è insomma un po' solo rallegrato ieri, pare, per la visita di due giocatori del Milan, Clarence Seedorf e Thiago Silva. Riguardo sempre al clima politico, c'è da dire che Cicchitto parla a Libero. Bersani ragiona, Repubblica ulula per intimidirci. Insomma, un Cicchitto che per nulla chiede scusa, anche il Corriere dice non ho nulla da chiedere scusa, non mi pento, quando ho parlato il mio leader aveva la faccia spaccata. Allora, come ci si sente invece a Libero? Io non sono né un falco né una colomba, sono un uomo politico che rivendica il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni. Ho elencato i soggetti che in questi mesi hanno scatenato una campagna mediatica di odio. Però lei ha interrotto la tregua, io non ho interrotto nulla. La tregua non può essere fatta dimenticando responsabilità di chi ha creato questa situazione. Costoro vanno neutralizzati. Non siamo tutti uguali, non si può scordare quello che è accaduto negli ultimi mesi, dice Cicchitto. Intanto c'è un dietrofront sulla vicenda delle leggi speciali sul web. Leggo dal Sole 24 Ore: Maroni no a leggi speciali sul web. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri e il titolare del Viminale porterà non più un provvedimento d'urgenza, scrive Marco Ludovico, non più un decreto legge ma un disegno di legge. Che cosa si prevede tra l'altro in queste le novità che potrebbero essere introdotte, discusse anche tutta la notte, riguarda soprattutto le manifestazioni di piazza? L'ipotesi di introdurre una nuova disciplina delle manifestazioni con il meccanismo già adottato per gli stadi. L'arresto differito, cioè se durante le riprese delle telecamere si vede che qualcuno ha compiuto ipotesi di reato, viene arrestato anche se la manifestazione è finita. E poi il disegno di legge, secondo indiscrezioni, introduce reati di impedimento o turbativa di riunione politica e sindacale e lancio di oggetti in caso di riunione pubblica e prevede che l'autorità giudiziaria possa ordinare di rimuovere entro 24 ore dal web i contenuti in cui sono ipotizzabili reati di istigazione a delinquere e apologia di reato. Comunque staremo a vedere oggi che tipo di provvedimento uscirà dal Consiglio dei Ministri. In primo piano. Leggo dal Corriere della Sera: una vita a dare pugni e a prenderne. Ora al tappeto c'è lui, Pier Gianni Prosperini, 63 anni, il gigante, 1,90 di altezza, 140 di torace, 46 di piede, il dottore, come lo chiamano tutti, il dermatologo, ex liberale, ex democristiano, ex leghista, poi transfuga, anzi traditur, come lo dicono, lo definiscono oggi alla Lega, anche a Innino, fino PDL. È l'assessore allo sport della regione Lombardia che è stato arrestato ieri. Uno i cui video girano, epocali, insomma, sono andati su YouTube soprattutto. Lui si definisce, si è definito baluardo della cristianità, difensore della fede, flagello dei centri sociali, eradicatore di No Global, condottiero e protettore del Nord. Era quello che, insomma, contro gli immigrati diceva non rispettate la legge, camel e barchetta e te ne turne a ca, che vuol dire cammello e barca e te ne torni a casa. L'avrete visto, l'avete sentito anche in GR24, insomma, ieri è stato arrestato in diretta praticamente da una TV, è stato chiamato, ma lei è in arresto, ma no, sono qui bel paciarotto, però devo mettere giù, perché c'era la Guardia di Finanza che lo stava arrestando. Che disse anche in passato, gli omosessuali garrottiamoli, ma non con la garrotta di Francisco Franco, alla maniera degli Apache, cinghia bagnata, legata stretta attorno al cranio. Il sole asciuga il laccio umido, il cuoio si ritira, il cervello scoppia. Vabbè, ci furono le richieste di dimissioni, poi lui disse, ma no, ho usato un'iperbole, la carrota Apache manco esiste, è come se avessi detto, puniamoli col soffio del drago. È stato arrestato, perché? Veniamo alla parte seria. L'inchiesta, scrivono Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, tra l'altro c'entrano proprio le TV locali. Sarebbe andato in TV facendo spot per 200.000 euro, solo che questi 200.000 euro non li avrebbe pagati Prosperini. Secondo l'accusa li pagavano chi? I contribuenti della regione Lombardia. Come? Beh, le TV sovraffatturavano all'ente pubblico alcune delle prestazioni previste da una maxi campagna di comunicazione istituzionale per la promozione turistica della Lombardia, campagna del valore di 7 milioni e 200 mila euro aggiudicata al profit group del padrone di Odeon TV e di telereporter Raimondo Lagostena, che ora per questo appalto è accusato di aver versato a Prosperini su Estero, in Svizzera, altri 230 mila euro. Tra l'altro, quello che diceva Chapel Camel, La Barchetta e Te Turnet in Dreacà, è anche accusato di avere venduto al governo dell'Eritrea 8 pescherecci dietro compenso di 800.000 euro, indagato per ipotesi di corruzione internazionale di funzionari esteri. Dunque, secondo l'accusa, da una parte il Camel e La Barchetta, dall'altra le barche vere, insomma, vendute. Ma Formigoni, ha detto, dimostrerà la sua innocenza. Veniamo alle notizie economiche. Il Sole 24 Ore parte il fondo per le PMI. Muove i passi, è il primo fondo e nuovo fondo italiano per le piccole e medie imprese. Si tratta di un fondo chiuso di private equity mirato ai soli investitori istituzionali per sostenere che cosa? L'aggregazione e la ricapitalizzazione di un target di circa 15.000 PMI. Ne scrive Il Sole a pagina 6, non ha ancora un nome, per il resto è già tutto ben pianificato, ha mosso ieri i primi passi con la nomina dello steering committee, la firma dell'accordo tra i protagonisti che sono il Tesoro, la Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria, ABI, Unicredit, Intesa San Paolo e Montepaschi. L'obiettivo è quello di un fondo di 3 miliardi in cui uno arriverà entro 3 mesi, annunciato come iniziativa privata, il primo in Italia come joint venture tra pubblico e privato. Il target delineato dal direttore generale del Tesoro Grilli sono le imprese italiane in fase di sviluppo con ambizioni di crescita interna ed esterna, con un fatturato compreso tra 10 e 100 milioni di euro. Si tratta sostanzialmente di un bacino potenziale di 15.000 imprese, di cui 10.000 manifatturiere, scrive Isabella Bufacchi. Dunque, e staremo a vedere, insomma, questo fondo che ha mosso i primi passi ufficiali ieri. Oggi è anche il giorno, sempre Isabella Bufacchi ne scrive, ma a pagina 5, del possibile allargamento o possibile riapertura dello scudo fiscale, lo scudo fiscale Quater. Oggi c'è appunto il Consiglio dei Ministri, Tremonti l'ha definita comunque la più grande manovra mai fatta, lo scudo Ter, quello chiuso l'altro ieri sostanzialmente. Scudo 3 da record, doppio record, effettivamente si tratta di una forchetta che andrà ben definita di tra gli 80 e i 100 miliardi che sarebbero entrati come capitale per questo scudo Ter, contro i 78 dei due precedenti scudi 2001-2003. Secondo Tremonti è la più grande e colossale manovra di potenziamento della nostra economia, pari a 5 punti di PIL in 3 mesi. Sono alla segnalazione finale, trovate molto sui pendolari ancora oggi sul Corriere della Sera, i pendolari, quelli del treno, i pendolari che si dicono cittadini di serie B, siamo di serie B dopo che c'è l'alta velocità, tutte le segnalazioni, ecco, le tendine rattoppate, i sedili rotti, non c'è il riscaldamento, i bagni fuori uso. È il nostro sondaggio, che ne pensate? Sono davvero cittadini di serie B coloro che prendono il treno? L'ultima segnalazione è di questa persona, arrestata ieri in Val Ferré, in Val d'Aosta. Voleva lì vivere la sua avventura selvaggia, viveva a 2000 metri su una tenda, solo che era cercato da tutto il mondo e dall'FBI. Si tratta di un medico statunitense, Mark Steven Weinberger, 46 anni, ricercato per frodi sanitarie, uno che fino al 2004 aveva vissuto come chirurgo estetico, uno dei maghi, dei chirurghi del naso soprattutto. Viveva con personal trainer, collaboratori, cuochi, nello sfarzo più assoluto, poi una serie di frodi fiscali, ha deciso di fare di che cosa? Ha lasciato tutto, è andato a vivere come il protagonista del film Into the Wild, film bellissimo, e viveva a 2000 metri sul Monte Bianco in una tenda. L'hanno fermato i carabinieri, ricercato, ripeto, dagli Stati Uniti. Al momento dell'arresto ha detto: io voglio solo vivere in libertà. Ha cercato di uccidersi anche con un coltello e invece è stato arrestato. La vita selvaggia in vetta del medico in fuga dal fisco. Lo trovate sul Corriere, ma anche su tutti gli altri giornali. È una bella storia da leggere. Ci fermiamo, votate il sondaggio GR24, ci sentiamo dopo.